Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, buon sabato, eccomi qua, pronta per una nuova puntata di Obiettivo Salute Weekend che come sempre parte con una copertina. Sulla copertina di oggi abbiamo messo un triangolo che rappresenta i genitori, i bambini e i pediatri, figure che dalla riapertura della scuola sono ovviamente al centro dell'attenzione. In linea con noi non poteva mancare il presidente della Società Italiana di Pediatria, il professor Alberto Villani, responsabile tra l'altro di Pediatria Generale del Bambino Gesù di Roma. Professore, buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno. Professore, noi ci siamo sentiti proprio in occasione del 14 giorno di riapertura della scuola in alcune regioni. Lei ha detto che la scuola è uno dei luoghi più sicuri. Ne è ancora convinto? Mi sono ancora più convinto. Ancora di più. Ancora di più, perché come avevamo detto è un luogo dove ci sono delle regole precise e dove c'è chi le fa rispettare. Non solo, gli episodi che si sono verificati hanno confermato che il contagio era extrascolastico, avvenuto fuori, ed è anche confermato che grazie a tutte le misure di prevenzione non ci sono contagi poi all'interno della scuola, e questo rappresenta un'ulteriore garanzia del fatto che le cose sono state fatte bene. Professore, come ogni anno, anche quest'anno la riapertura della scuola coincide con i primi raffreddori, qualche colpetto di tosse, due linette di febbre. Oggi con il Covid basta un colpo di tosse, basta uno starnuto per creare allarme e per accendere un po' gli animi e le polemiche, professore. Guardi, è verissimo, è tutto vero ciò che lei sta dicendo, ed è anche vero che tutti sanno che questo nuovo virus che ha determinato la pandemia, quindi ha in qualche modo bloccato il mondo, ha dato tante situazioni gravi e spiacevoli, ha una connotazione, ossia il fatto che in alcuni soggetti, pur essendo presente, non dà sintomi, sono i cosiddetti soggetti asintomatici, e laddove ci sono dei sintomi, quelli che hanno pochi sintomi, pauci sintomatici, hanno dei sintomi che sono del tutto sovrapponibili a molte virosi banali, dall'influenza al raffreddore. Quindi il problema è rappresentato proprio da questo, ossia dal fatto che non è che c'è la possibilità di fare una diagnosi clinica, ossia facendo delle domande ai genitori per sapere quello che è successo al bambino e visitando il bambino, ed escludere senza fare dei test che si tratti di coronavirus. Questo impone il fatto che se il medico deve certificare l'assenza del coronavirus, ha necessità assoluta di avere un test diagnostico che provi questo. Ed è questo il motivo per cui, se la certificazione richiesta è una certificazione che garantisca dall'assenza di coronavirus, in realtà le cose sono due: o è necessario fare un'indagine diagnostica sicura, quindi il tampone, oppure basta fare il tampone senza nemmeno il certificato. Se invece quello che è richiesto è una certificazione in cui venga scritto che il bambino, quando viene visitato, non presenta sintomi di malattie infettive e o contagiose in atto clinicamente rilevabili, ma ripeto, questo non esclude che non possa avere il SARS, questo potrebbe essere fatto. Ma su questo poi c'è un altro problema che si innesta, ossia in alcune regioni, e voi sapete che la pediatria del territorio ha dei contratti che sono in parte nazionali e in parte regionali, il certificato di riammissione a scuola era stato abolito, ossia se un bambino stava bene e tornava a scuola non c'era la necessità di dover certificare il benessere, perché effettivamente, se uno ci pensa, fare un certificato per dire che qualcuno sta bene, no, poteva non essere indispensabile. Quindi è tutta questa situazione che in qualche modo va rivisitata e normata, e qui ci sono tanti problemi, non ultimo il fatto che la sanità in Italia è parcellizzata nelle diverse regioni. Allora, bisogna rispettare l'esigenza dei genitori di mandare i bambini a scuola. I pediatri sono gli alleati dei genitori e cercano e devono favorire le migliori soluzioni per garantire bambini e famiglie. C'è l'esigenza dei pediatri di poter certificare ciò che risponde a verità. Quindi se quello che è richiesto è il fatto che un bambino non abbia sintomi, lo si può certificare. Se si deve certificare che non ha l'infezione da SARS-CoV-2, ci vuole un test. L'esigenza dei dirigenti scolastici, che hanno la responsabilità della salute non solo degli studenti, ma anche di chi lì lavora. Quindi è una situazione complessa. Anche in questo caso quello che è richiesto è la partecipazione di tutti. Allora, se si entra nell'ordine di idee che è possibile avere una certificazione che escluda patologie clinicamente rilevabili in atto, non c'è bisogno del tampone. Ma questo deve essere ben chiaro a tutti, deve essere chiaro ai genitori, deve essere chiaro ai dirigenti scolastici, deve essere chiaro agli eventuali avvocati che poi potrebbero invece citare in giudizio un certo pediatra che fa questo tipo di certificazione. Quindi è una situazione molto complessa. Professore, chiudiamo con i consigli del professor Villani, presidente della Società Italiana di Pediatria, ai genitori. Ci troviamo dinanzi a una situazione nuova in tutto il mondo. 9 mesi fa, 10 mesi fa, nessuno avrebbe potuto prevedere quello che sta accadendo. Quindi bisogna anche capire questo, che l'apparente confusione è dovuta anche a questo, che siamo, certo, di fronte a un episodio nuovo. Per quanto riguarda i genitori, uno, viene ribadito che fortunatamente nei bambini il SARS-CoV-2 è meno pericoloso e aggressivo che negli adulti. Due, che andare a scuola è un qualcosa di assolutamente sicuro e lo è ancora di più anche nella protezione dagli altri virus, perché soprattutto dai 6 anni in su, che è previsto l'uso delle mascherine e del distanziamento, la possibilità che ci sia un contagio è vicina allo zero. Tre, cercare di interagire al meglio con il proprio pediatra per trovare le soluzioni migliori, che sono proprio quelle di cercare di evidenziare eventuali situazioni. Faccio un esempio per tutti: se un bambino ha una rinite allergica dovuta al fatto che c'è un'allergia agli acari della polvere, che in questo periodo possono dare sintomi e quindi il naso che cola, già una certificazione che attesti questo rasserena magari anche i dirigenti scolastici. E poi dobbiamo trovare il modo, e di questo si sta parlando anche al Ministero della Salute, non di avere necessariamente il medico scolastico, ma un servizio di medicina scolastica che possa, diciamo così, alleviare tante situazioni, favorire un contatto più stretto tra mondo della scuola e mondo sanitario, che tutela i genitori. Ma i genitori, dico proprio che possono e devono stare tranquilli, perché fortunatamente nei bambini questo virus è meno aggressivo. Professor Villani, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi per l'opportunità che date sempre di dare dei contributi che ci auguriamo poter essere d'aiuto. Grazie veramente per il servizio di utilità sociale che svolgete. Grazie allora al professor Villani. Adesso farei con voi un saltino in Spagna, ma proprio piccolo piccolo, per poi tornare a casa nostra. Vi aspetto, non mancate. Blumatica, il software scelto dalle aziende per la sicurezza dei lavoratori. Blumatica.it vi presenta Obiettivo Salute Weekend. La coperta è gelata e l'estate è finita. Buonanotte, questa notte è per te. La TV spagnola manda a letto i fiorellini prima. Perché? Perché dopo l'allarme dei medici, i programmi di punta sono stati spostati di mezz'ora, così gli spagnoli vanno un po' a letto prima. Perché? Perché la qualità e la quantità del sonno sono importanti. In linea con noi abbiamo il professor Lino Nobili. Buongiorno, professore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Insomma, leggendo questa notizia io ho pensato subito a lei, neuropsichiatra infantile all'ospedale Gaslini di Genova ed esperto di sonno. Professore, la qualità del sonno è importante, ma abbiamo parlato di bambini, ad esempio per i nostri bambini è importante anche la quantità di sonno. Ma assolutamente, nei bambini la quantità di sonno deve essere assolutamente maggiore rispetto a quella che ci attendiamo appunto per gli adulti, ci sono sempre le variabilità, ma i bambini sicuramente hanno bisogno della qualità, ma anche assolutamente della quantità. Ecco, perché durante hanno pagato un po' il prezzo. Vero, durante il sonno i bambini crescono. Detta così sembra che non abbia niente di scientifico, ma no, è corretto. Vero, professore? È corretto. Perché nella fase di sonno profondo si produce, è il momento in cui si produce di più l'ormone della crescita, che è fondamentale proprio nella fase dello sviluppo per la crescita corretta di un bambino, anche per l'adulto, perché poi interviene nel rompere le scatole, diciamo, per i problemi di osteoporosi, il GH, però nel bambino è fondamentale per la crescita. Il sonno buono, quindi il sonno profondo, è necessario. Questa è la ragione per cui i bambini devono andare a letto prima? Questo di andare a letto prima dei bambini è per garantire a loro una quantità sufficiente rispetto a quello che è necessario per la loro età, e purtroppo quello che si è visto negli ultimi anni in Spagna, poi in maniera ancora più evidente per una serie di costumi sociali, i bambini negli ultimi 10 anni dormono di meno rispetto a quello che succedeva in precedenza, per tante ragioni, e ne abbiamo parlato spesso, ma c'è stata una deprivazione sociale. Questo potrebbe anche essere un'evoluzione dell'essere umano, ma in questo momento i bambini ne stanno un po' pagando il prezzo. Professore Nobili, domani niente sveglia, possiamo dormire un pochino di più, ma mi chiedo se sia la stessa cosa recuperare quello che abbiamo perso durante la settimana dormendo un paio d'ore in più la domenica o durante il weekend. Questa è una domanda molto, diciamo, calda anche negli ambienti scientifici, e hanno fatto numerosi studi su questo argomento. Per esempio, uno studio di un anno e mezzo fa, un paio d'anni fa, del Karolinska Institute aveva valutato una quantità di soggetti che recuperavano nel weekend, e quello che si era visto è che il recupero nel weekend può essere efficace, per esempio se si parla di mortalità, la mortalità era ridotta nei soggetti che deprivati durante la settimana però riuscivano a recuperare nel weekend. Tuttavia sappiamo anche Vede che il weekend ci salva, può allungarci anche la vita, però d'altra parte, qui poi nella ricerca ci sono sempre il pro e il contro, ci sono anche degli altri dati che raccontano come non sia però sufficiente, per esempio, recuperare nel weekend per alcuni aspetti della regolazione metabolica, no? Dall'insulina all'obesità, il peso, il recupero nel weekend non sembra essere efficace. E poi anche lì bisognerebbe andare nel dettaglio, perché il recupero nel weekend è qualcosa che garantisce sicuramente dal punto di vista cognitivo del nostro stress un recupero, però se questo recupero è eccessivo altera il ritmo, la nostra regolazione di cui abbiamo sempre parlato, per cui una cosa tipica per esempio è il recupero nel weekend dell'adolescente o che si alza molto tardi e che quindi già la sera della domenica non riesce a prendere sonno e comincia già male la sincronizzazione, per cui quello che noi diciamo sempre, assolutamente recuperare può essere efficace, ma non esageriamo, cerchiamo di recuperare un'ora e mezza, al massimo 2 ore, ma non i risvegli a mezzogiorno come spesso succede negli adolescenti, perché in realtà hanno poi questo un effetto negativo sull'addormentamento e sull'alterazione dei ritmi nei giorni successivi. Professor Nobili, grazie per essere stato con noi, quindi anche i nostri figli adolescenti, cerchiamo di organizzarci, mangiamo insieme a pranzo alla domenica, perché almeno li svegliamo e non passano tutta la giornata a recuperare il sonno che hanno così in qualche modo perso durante la settimana. Professore, cercheremo di convincerli, sarà durissima. Non è facile. Sì. Però noi diremo, l'ha detto il professor Nobili, svegliati che sono le 11. Grazie professore, buona giornata a lei. Grazie a voi, arrivederci. Che è una relazione molto stretta, ce la facciamo spiegare tra pochissimo dal nostro prossimo ospite che conoscete bene, tra la qualità del nostro sonno e la nostra pressione. Buongiorno al professor Claudio Borghi, direttore dell'unità operativa di medicina interna al Policlinico Sant'Orsola Malpighi di Bologna e coordinatore scientifico della Società Italiana di Ipertensione. Professore, buongiorno. Ci sono tante... Ho fatto bene a chiamarmi, mi sono appena risvegliato. Ecco, vede che l'ho tirata giù dal letto. Professore, ci sono tante buone ragioni per controllare la qualità del nostro sonno. Tra le tante c'è anche un vantaggio a livello della nostra pressione. Ci spiega perché? Sicuramente, perché il sonno è una di quelle fasi della nostra vita nella quale i sistemi che controllano la pressione in qualche modo si riposano e si preparano per il giorno successivo. Quindi questi sono sistemi che non possono restare attivati 24 ore al giorno e che in generale hanno bisogno di avere una fase nella quale si sistemano e si ripreparano per il giorno successivo, e questa è esattamente la notte. Se noi togliamo ai nostri sistemi di controllo questa possibilità di recupero, naturalmente il giorno dopo loro ci rispondono in maniera piuttosto aggressiva, di solito mantenendo valori pressori più alti. Quindi, professore, potrebbe la pressione elevata potrebbe essere una conseguenza di un sonno non adeguato, di cattiva qualità del sonno, anche sicuramente, se non ne abbiamo la percezione, perché possiamo anche dormire male senza averne la consapevolezza. Nella maniera più assoluta, probabilmente, prima di tutto, diciamo, la qualità del sonno è l'elemento determinante, che non è tanto legato alla durata del sonno. Il professor Nobile è un maestro da questo punto di vista. Uno può dormire anche un numero di ore relativamente limitate, a patto che rispetti tutte le fasi caratteristiche del sonno. Ma se il nostro sonno è troppo breve o è troppo disturbato, o in alcuni casi addirittura troppo lungo, perché anche un numero eccessivo di ore di sonno genera un aumento del rischio cardiovascolare, proprio per l'alterazione che determina su questi sistemi che sono correlati al sonno nel rapporto fra la veglia e il sonno stesso, ovviamente può diventare un serio problema. Quindi sicuramente la qualità del sonno è uno degli elementi che può influenzare lo sviluppo di ipertensione e con esso di malattie cardiovascolari. Un altro probabilmente è lo stress che ci fa perdere il sonno e a sua volta che va a ricadere sulla pressione. Professore, certamente. Tanto che a proposito di stress, quando lo stress è una condizione importantissima, la sostanza fondamentale è che lo stress non è la causa dell'ipertensione, ma è una condizione che può peggiorare il controllo della pressione, o alternativamente, nel caso in cui noi abbiamo la pressione più alta del normale, può contribuire a renderla resistente al trattamento farmacologico. Ma anche in questo caso il terminale è sostanzialmente lo stesso, cioè è sempre una modalità di azione errata di quel meccanismo, di quel network, di quella rete di servocontrollo del funzionamento dell'organismo, che ha necessità non solo di riposarsi durante la notte, ma anche necessità di non essere stimolata in maniera eccessiva durante la giornata. In minime quantità è sicuramente vantaggiosa perché ci rende molto più reattivi, ma quando la durata della stimolazione dei meccanismi di stress diventa eccessiva, a quel punto si instaurano dei meccanismi di compenso, e uno di questi è l'aumento della pressione. Professore, a proposito di stress e di pressione, non che sia colpa vostra, ma lei sa bene che quando noi andiamo dal medico e ci misura la pressione siamo magari un po' agitati e abbiamo dei valori della pressione che sono più altini rispetto a quelli di quando ce la misuriamo a casa o magari dal nostro farmacista con cui abbiamo maggiore confidenza. Li tengo in considerazione questa ipertensione da camice bianco oppure faccio finta di niente? Certo, beh, in questo caso forse vale la pena di spendere 10 secondi sulla nomenclatura. L'ipertensione da camice bianco è una condizione nosografica a sé stante, ossia vuol dire una condizione in cui tutte le volte che noi affrontiamo una qualsiasi situazione stressante, di qualsiasi natura, i valori pressori superano ampiamente la normalità, per cui sommando tutti questi picchi nella giornata si genera un complesso di aumenti dei valori della pressione che definiscono una vera e propria malattia ipertensiva. Probabilmente più semplice è il cosiddetto effetto camice bianco, cioè quello generato dal fatto che l'affrontare una situazione sgradevole come potrebbe essere quella di dover affrontare la misurazione del medico generano un rapido aumento della pressione, però molto transitorio, che noi possiamo molto tranquillamente escludere eliminando il primo valore di pressione quando noi la misuriamo e considerando fondamentalmente come pressione reale i due valori successivi, o alternativamente ricorrendo in maniera sistematica la misurazione domiciliare della pressione, quella che viene chiamata in maniera anglosassone home blood pressure, che ha il vantaggio di non subire questo effetto camice bianco e quindi naturalmente genera valori di pressione più vicini alla normalità e per questi più utili per inquadrare il nostro rischio cardiovascolare. Professor Borghi, chiudiamo dando i numeri. 140-90 è graniticamente il livello graniticamente super... mi piace graniticamente livello superiore dei valori normali di pressione arteriosa. Fondamentalmente sarebbe bene che la pressione fosse al di sotto di 130-80 e si definisce normale, meglio ancora se è possibile, se si è così fortunati, al di sotto di 120-70 che è una pressione che si definisce ottimale. Questi sono i valori fondamentali, naturalmente con qualche distinguo a seconda del tipo di paziente, ma se noi teniamo davanti a noi la stella polare del 140-90 su tutta la popolazione, 130-80 nei pazienti che hanno invece un'età un pochino più giovanile, quindi possono permettersi di tollerare valori di pressione un pochino meglio controllati, credo che facciamo moltissimo e di buono per tutti noi. Grazie professore per essere stato con noi. Grazie a voi, è stato come sempre un grande piacere. Anche per noi, grazie professor Borghi, grazie per essere stato con noi. Noi ci sentiamo tra l'altro domani, mi raccomando, svegliatevi, svegliate anche i vostri ragazzi per tempo per mangiare alla tavola della bufala in tavola. Valeria Bernardi è in regia alla parte tecnica e la ringrazio, Laura Vanossi è in assistenza e in redazione. Insomma, vi devo salutare, ma domani alle 12 ritorno. Buona giornata. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.